Giorni fa l'Oliva, commentando i nuovi videogiochi che, ispirandosi alla Bibbia, avrebbero fatto diventare tutti i bambini più buoni, tema oggi estremamente d'attualità, l'Oliva ha elencato tutta una serie di nequizie che disgraziatamente nella Bibbia si trovano con buona pace di coloro che incauti l'assumono come modello. Ebbene, nell'elenco il mio amico Carlo ha trascurato di inserire quanto si può leggere in Numeri 31, 17, 18, recupero letterario che debbo alla valentia straordinaria di Walter, perché sapevo che c'era, ma mai sarei riuscito a ritrovarlo. In Numeri 31, 17, 18 si narra che sembra che un giorno in cui aveva la luna particolarmente di traverso, il Signore abbia chiamato Mosè e gli abbia ricordato che era ora di liquidare alcuni conti in sospeso con i Madianiti. Detto i Madianiti, peggio per loro, detto e fatto. Mosè organizza una spedizione cui affida ordini precisi. Praticamente andate ed ammazzateli tutti. I Madianiti maschi e adulti, pare si pensava di poter intendere, no? Quelli vanno, ammazzano tutti i maschi adulti che trovano, gli rubano tutto, compresi i dischi degli Tletoni, e tornano con i prigionieri. Tornano con i prigionieri che sono, ovviamente, donne e bambini. Non l'avessero mai fatto. Mosè si imbestia come una iena e dice ai suoi bravi che non hanno capito niente. Dà dunque l'ordine con piglio selettivo più chiaro: si ammazzino tutti i bambini, e poi si dice da chi aveva preso Erode, e le donne non vergini e avanti negli anni, nel senso che di una vergine avanti negli anni Mosè, a quanto pare per il principio darwiniano applicato all'estetica, non sapeva che farsene. So cosa diranno gli appassionati bibliofili, che la Bibbia vabbè, che no, ma no, come, che la Bibbia è opera complessa, che va letta nel suo contesto, che va inteso quanto contiene, quanto contiene di implicito va inteso. Certo, era implicito che per Mosè le giovani vergini uniche da salvare dovessero ovviamente essere carine.